Guai alla superba corona degli ubriachi di Efraim, al fiore caduco del suo splendido ornamento che si trova al vertice della pingue valle degli storditi dal vino. Ecco un forte, un potente inviato dal Signore, come una tempesta di grandine, un turbine devastatore, come una tempesta di acque potenti ed inondanti, con la sua mano getta tutto a terra. Sotto i piedi sarà calpestata la superba corona degli ubriachi di Efraim. Ed il fiore caduco del suo splendido ornamento, che si trova al vertice della pingue valle, sarà come un fico primaticcio prima dell'estate, quando uno lo vede e lo inghiotte appena l'ha in mano. In quel giorno il Signore degli eserciti sarà una splendida corona, un magnifico diadema per il resto del suo popolo, uno spirito di giustizia per chi siede in tribunale, una forza per coloro che respingono l'assalto alla porta. Anche costoro barcollano per il vino e per la bevanda inebriante vacillano. Sacerdoti e profeti barcollano per la bevanda inebriante, sono storditi dal vino. Vacillano per la bevanda inebriante, barcollano come avessero visioni, si intoppano pronunciando il verdetto. Sì, tutte le loro mense sono piene di vomito ripugnante, non vi è posto pulito. A chi vuole insegnare la scienza? A chi vuole far comprendere il messaggio? A quelli che sono stati slattati, staccati dal seno? Sì, precetto su precetto, precetto su precetto, regola su regola, regola su regola, un po' qui, un po' là. Sì, con labbra balbuzienti e con altra lingua parlerà a questo popolo, lui che aveva detto loro: ecco il riposo, fate riposare lo stanco, ecco la quiete. Ma essi non vollero ascoltare. Allora il Signore parlerà ad essi, precetto su precetto, precetto su precetto, regola su regola, regola su regola, un po' qui, un po' là. Onde camminando cadano indietro, si fratturino, siano presi al laccio e catturati. Perciò udite la parola del Signore, voi arroganti che governate questo popolo e abitate a Gerusalemme, giacché dite: abbiamo concluso un patto con la morte e con lo Sheol abbiamo fatto un'alleanza. Quando passerà lo straripante flagello, non ci raggiungerà, giacché abbiamo fatto della menzogna il nostro rifugio e ci siamo riparati nella falsità. Perciò così parla il Signore Dio. Ecco, io pongo in Sion una pietra scelta, angolare, preziosa, bene fondata. Chi crede non si agiterà. Porrò come misura il giudizio e la giustizia come livella. La grandine spazzerà via il rifugio di menzogna e le acque travolgeranno il riparo. Sarà annullato il vostro patto con la morte e la vostra alleanza con lo Sheol non reggerà. Quando passerà lo straripante flagello, voi ne sarete calpestati. Ogni qualvolta passerà, vi prenderà, perché passerà ogni mattino, di giorno e di notte. Non vi sarà che spavento nel comprendere ciò che è rivelato. Il letto sarà troppo corto per distendersi, troppo stretta la coperta per avvolgervisi. Sì, Signore si leverà come al monte Perazim. fremerà come nella valle di Gabaon per compiere la sua opera, un'opera straordinaria per adempiere il suo progetto, progetto singolare. Ora smettete di essere arroganti, affinché non si rinforzino le vostre catene, perché ho udito un decreto di rovina da parte del Signore, Dio degli eserciti, riguardo a tutto il paese. Fate attenzione e udite la mia voce, siate attenti e udite la mia parola. Ara forse l'aratore tutto il giorno per seminare? Non scinde egli e sarchia il terreno? Non appiana egli la superficie? Non vi semina l'aneto e non vi sparge il comino? Non mette il grano e l'orzo e la spelta nel suo spazio? Il suo Dio gli ha inculcato questa regola, lo ha ammaestrato. Certo, l'aneto non si trebbia con il tribbio, né si fa circolare il rullo sul comino, ma l'aneto si batte con il bastone e il comino con la verga. Si schiaccia forse il frumento? Certo, non lo si pesta indefinitamente. Vi si fanno passare sopra la ruota del carro e i suoi cavalli, ma non lo si schiaccia. Anche ciò proviene dal Signore degli eserciti, che è meraviglioso nel suo consiglio e grande in sapienza.